si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, buongiorno, buon sabato cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24. Alle 7.30 il sabato fino alle 10 staremo insieme. Un'occhiata adesso alle pagine dei giornali di oggi, una veloce rassegna stampa che ci condurrà fino al giornale radio delle 8. Poi torneremo, cominceremo con i nostri approfondimenti, sempre a caccia di buone notizie. Partiremo, ve lo dico subito, dalla legge regionale dell'Emilia Romagna verso rifiuti zero. Una buona notizia perché i rifiuti sono una miniera d'oro. L'Emilia Romagna è la prima regione in Italia ad avere una legge all'avanguardia in Europa, almeno questo è quello che dicono i tecnici. L'obiettivo è chiudere degli inceneritori e portare la raccolta differenziata oltre il 70%, più tutta una serie di altre questioni. Ne parleremo appunto dopo il GR delle 8. Adesso cominciamo, anzi subito vi do anche i nostri contatti se volete interagire con noi e commentare con noi le pagine dei giornali. La pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è chiocciola Si può fare 24, il mio chiocciola Ale Maurizi. Vai! Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, il gesto sessista di Barani, Lucio Barani, il senatore verdiniano, accusato di aver fatto un gesto appunto sessista nei confronti di una senatrice del Movimento 5 Stelle, campeggia sulle pagine di tutti i giornali. Sotto traccia la riforma del Senato che avanza con insomma, la maggioranza che tiene, si è perso forse qualche voto qua e là, qualche piccolo colpo, ma insomma non ci sono. Palazzo Chigi, il governo non mostra segnali di preoccupazione. E questo per quanto riguarda, diciamo, il tema principale dei giornali di oggi, ma poi c'è ancora sviluppi del Dieselgate e altre notizie. Cominciamo proprio con il Corriere della Sera, che appunto titola su questo: il gesto sessista, il caos in Senato, la maggioranza va avanti sull'articolo 2, la seduta però sospesa dopo la reazione delle donne. Il Movimento 5 Stelle accusa il verdiniano Barani. Tra poco vedremo, prima leggiamo un altro titolo che riguarda invece Roma, metropolitana e bus fermi per lo sciopero, Roma bloccata da due serrate al mese. E questo è il bilancio che è stato fatto, basta diciamo mettere insieme, allineare, mettere in fila le proteste sindacali più o meno impattanti sulla vita dei cittadini della capitale per giungere a questa conclusione. Ieri le linee A e B della metropolitana chiuse per lo sciopero di una sigla sindacale, servizi ridotti di autobus e tram. Poi ci sono messi anche, per carità, tutto legittimo, due cortei, uno degli studenti, l'altro dei movimenti per la casa, anche la pioggia, e insomma ieri Roma era paralizzata. Torniamo però al anzi, un'altra notizia che riguarda Roma è questa, riguarda il sindaco Marino. Viaggio bis a New York, il dietro front di Marino, così scrive il Corriere in seconda pagina. Contrordine, compagni, Ignazio Marino non parte più, anzi spiega in una nota di non aver mai detto che sarebbe partito di nuovo per New York. Sapete che questa polemica si porta avanti da quest'estate, da quando durante la questione funerale di Casa Monica Marino, quando poi insomma è stato deciso di affiancargli il prefetto di Roma Gabrielli, Marino era in vacanza, non è rientrato e insomma qualcuno ha voluto vederci un'assenza da parte sua, una mancanza. Poi c'è stato il viaggio a New York che ha rincarato la dose, si parlava di un secondo viaggio a New York, apriti cielo. Niente, giovedì all'Assemblea dei Costruttori Romani all'Acer aveva detto chiaramente Marino: il 6 novembre con un gruppo di noi presenteremo una serie di progetti alla Camera di Commercio di New York, dove sono stato invitato dal presidente Alberto Milani. Tutti avevano pensato a un nuovo viaggio di Marino e quindi diciamo a una nuova fuga tra virgolette del sindaco della città dalle sue responsabilità o comunque dal suo posto che è in Campidoglio. ieri la smentita. È lo schema viaggio del Papa, scrive il Corriere, dal mai detto che mi aveva invitato in Vaticano, quando invece lo aveva detto e lasciato intendere in tutti i modi, al mai detto che sarei andato a New York. Questo per quanto riguarda Roma. Invece, tornando alla questione Senato, mentre appunto avanza il voto con la riforma, con l'articolo 2 della riforma del Senato, disegno di legge Boschi, vabbè, insomma, la questione l'avete vista tutti nei telegiornali. Oggi sui giornali non si parla quasi d'altro. Sono stato frainteso, erano gesti istintivi, ha detto Barani. Paola Taverna del Movimento 5 Stelle è durissima. Ah, zozzo, do sta quello zozzo. Barani, sei un porco maiale zozzo. Diciamo che se i senatori ci volevano fornire una prova in diretta a favore, a sostegno della riforma del Senato o della chiusura del Senato o della riduzione del numero dei senatori, diciamo che Barani ha dato manforte. Del resto lui fa parte del gruppo dei verdiniani, quelli che stanno sostenendo le riforme costituzionali del governo Renzi. Ecco, diciamo che questa è una prova in diretta abbastanza forte. Vabbè, insomma, ma cosa ha fatto Barani però? Ecco, diciamo, Repubblica si spinge, diciamo, fino ad una interpretazione, perché non ci sono prove video, prove fotografiche. Scrive con una certa, per fortuna ancora, leggerezza Filippo Ceccarelli: in mancanza di adeguata documentazione fotografica d'emiciclo, sia pure con il dovuto scrupolo, ma non senza un filo di rassegnata e divertita malinconia, si rende noto al gentile pubblico degli appassionati di riforme costituzionali che il suddetto signor Barani, il quale anche ieri sfoggiava all'occhiello un garofano rosso, perché lui è un socialista d'antan, ha simulato una fellatio. Ebbene sì, questa è l'accusa. Però lui dice, sempre su Repubblica intervistato, devo dire un po' penoso Lucio Barani, perché lui dice questo: il mio gesto era involontario. Cosa vuol dire? Se o non l'hai fatto, o se l'hai fatto, non può essere involontario. Però qua già iniziamo male la risposta. E comunque era un gesto indirizzato a un gruppo che non faceva parlare il senatore Falanga. Cioè lui ha accusato diciamo quelli che volevano fare ostruzione al discorso del suo collega Falanga di rimangiarsi quello che stavano dicendo. E questo sarebbe diciamo l'equivoco, no? Poi dice: ma miope come sono, io la senatrice del Movimento 5 Stelle non la vedevo nemmeno. Anche qua si resta basiti, perché Barani porta gli occhiali e le indossava in quel momento, quindi o gli occhiali non servono a nulla oppure la miopia non c'entra un tubo. Comunque ho chiesto la prova video che chiarirà la mia totale innocenza. Vergognoso è il comportamento delle colleghe del Movimento 5 Stelle. La collega suddetta Barbara Lezzi, quella che si è sentita, diciamo, tirata in ballo, la descrive così invece la situazione, la scena come è andata. Falanga ha chiesto di intervenire, per regolamento non poteva in quel momento, siccome Grasso è ligio nel richiedere il rispetto del regolamento, noi abbiamo insistito affinché non consentisse quell'intervento fuori dalle regole. Barani ha fatto quel gesto in segno di soddisfazione perché Falanga interveniva lo stesso, cioè si chiedeva di non far intervenire questo senatore del Verdiniano, che invece è intervenuto lo stesso. Allora Barani, come dire, ha detto: beccatevi questo, e ha fatto il gesto della fellatio. Ripeto, lui smentisce. Conclude la senatrice del Movimento 5 Stelle Lezzi, dice: lui ha detto di essere stato mal interpretato, non ha chiesto scusa, se lo fa le scuse le accettiamo, ma se sostiene che mezza aula lo ha mal interpretato, allora puntini puntini. Beh, in effetti, insomma, dovrebbero essere stati miopi tutti quegli altri che insomma hanno visto abbastanza chiaramente. Ma va bene, questa è la cronaca di ordinaria stupidità del Senato. Ripeto, una bella prova di necessità di ridurre quantomeno il numero dei senatori, se non addirittura di abolirlo, come qualcuno dice. Il Senato, non so se siamo ancora in tempo per questo, non credo, perché se passa la seconda, diciamo, votazione su DDL Boschi, diciamo, a questo punto la riforma si incardina verso un futuro radioso. Sempre da Repubblica, intanto c'è l'intervista a Matteo Renzi, che commenta anche questo fatto e dice: dov'è? Ogni gesto volgare, in modo particolare verso le donne, va censurato senza se e senza ma. Poi, a proposito dei verdiniani, Verdini ormai è diventato il paravento per qualsiasi paura, dice Renzi, tutti lo evocano. anche vedendolo dove non c'è. Ormai è raffigurato come una sorta di mostro di Loch Ness. Però ricorda Renzi, Verdini e i suoi non fanno parte della maggioranza di governo, votano le riforme ma non la fiducia. Ancora cosa dall'intervista di Matteo Renzi su Repubblica sul PD: io voglio un PD unito, sempre lavoro per questo. Nel PD c'è però qualcuno che non ha ancora elaborato appieno il lutto del congresso, magari perché raramente in passato lo aveva perso. Dice: io però rispetto tutti, è giusto che ci sia spazio per le idee altrui, in particolare in particolar modo sui temi costituzionali. Poi sull'Italicum, è vero che c'è un'intesa per cambiare l'Italicum, la domanda del giornalista di Repubblica Tito, perché circola questa voce sul premio, diciamo, di maggioranza da affidare non più al partito ma alla lista. E Renzi risponde: qualcuno ha avanzato questa idea, mi sembra assurdo e fuori tempo aprire un dibattito 4 mesi dopo l'approvazione e 2 anni e mezzo prima delle elezioni. Quindi ne fa una questione di tempi, di tempistica. E poi conclude Renzi: a me peraltro la legge piace così com'è, quindi non smentisce che ci sia qualcuno che stia lavorando per cambiarla. Lui dice che a lui piace così com'è la legge elettorale Italicum. C'è poi anche la domanda sui giudizi dati sui talk show e sulla presunta aggressione alla RAI. Ho detto e lo ripeto oggi e domani che i talk show rischiano di diventare un pollaio senza anima. È una critica che faccio innanzitutto alla politica, una autocritica. È un po' come il wrestling: tutto sembra vero, tutto corre il rischio di essere finto. Detto questo, non è colpa mia se la 100ª replica di Rambo fa più dei talk. A proposito dell'editto bulgaro, ha detto, dice Renzi, ha fatto sparire gente dalla TV quello di Berlusconi. Io non ho fatto niente di tutto questo, per favore non scherziamo. E poi annuncia misure contro la povertà infantile, contro i bambini indigenti in particolare. Ancora non ci sono i dettagli, ma di questo provvedimento si parla da un po'. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra pochissimo. Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile, vi presenta... Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, insieme ai giornali di oggi arriviamo fino al giornale radio delle 8. Dalla prima pagina di Repubblica un altro paio di notizie: Hollande, Merkel a Putin, bisogna colpire solo l'ISIS. Poi Obama che dice sulla Siria si rischia un disastro. Insomma, Hollande e Merkel, Francia e Germania che si riallineano un po' agli Stati Uniti su, ammonendo la Russia di colpire solo l'ISIS, la Russia che è stata, diciamo, accusata apertamente dall'America di colpire anche degli altri ribelli filo occidentali, filo americani. C'è un commento di Carlo Petrini di Slow Food sulla notizia, diciamo, di questa settimana, notizia che riguarda gli organismi geneticamente modificati, perché l'Italia ha inviato a Bruxelles il parere, diciamo, sulla possibilità di sperimentare coltivazione OGM in Italia, e ministri Martina dell'Ambiente, Galletti hanno detto no. L'Italia conferma il suo no. Il commento di Carlo Petrini: così l'Italia libererà l'Europa dagli OGM, scrive Petrini. Bisognerebbe avere sempre in serbo qualcosa di piacevole da dire agli ospiti quando arrivano, una bella notizia, un racconto positivo. Oggi a Milano potrò accogliere i 2500 delegati di Terra Madre, giovani con l'allegria di un risultato raggiunto. Potrò dire loro che il paese che ha voluto l'Expo sul cibo e che da domani a martedì ospiterà il loro evento We Feed the Planet ha chiesto all'Europa di poter escludere il territorio nazionale dalla coltivazione di tutti gli OGM autorizzati a livello europeo. Insomma, una buona notizia secondo Carlo Petrini, una buona notizia secondo una parte almeno degli agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura è più scettica. Resta un po' la questione, diciamo, della possibilità quantomeno di fare ricerca sugli OGM in Italia. che così diciamo viene preclusa, ricerca che diciamo di per sé è un fatto sempre positivo, ma soprattutto secondo il mio punto di vista resta da risolvere quel problemino delle importazioni di mangimi e di semi OGM o anche di prodotti che derivano da OGM, per cui l'Italia non li può produrre, secondo me giustamente, però li può importare, e allora diciamo gli agricoltori si trovano di fronte a questo tipo di concorrenza. È un problema che prima o poi andrà toccato, risolto, va bene. Invece per quanto riguarda lo scandalo Volkswagen, Chrysler, General Motors, Mercedes, il nuovo fronte degli Stati Uniti nello scandalo del diesel, scrive Repubblica sul Sole 24 Ore, titolo principale proprio dedicato a questo. Auto, si allarga l'indagine americana, in Italia controlli sugli Euro 5. Allora, intanto il Sole 24 Ore riporta quali sono gli 80 modelli delle 8 case che sono nel mirino in questo momento degli accertamenti Euro 5: BMW, Mini, Fiat Chrysler, Ford, Hyundai, Mercedes, Opel, Citroen, Peugeot, Renault e naturalmente gruppo Volkswagen. Sono tutti modelli che in questo momento il Ministero dei Trasporti ha deciso di controllare, quindi diciamo potete verificare anche voi se avete un'auto che rientra tra queste. Poi c'è il commento di Marco Valsania che scrive: le cifre di un disastro, perché di questo diciamo si sta parlando. Le cifre sono da capogiro. Qualche analista, quelli di Credit Suisse, forse anche solo per far colpo, calcola che lo scandalo Volkswagen potrebbe costare all'azienda anche quasi 90 miliardi di dollari. 90 miliardi di dollari, una cifra pazzesca, facendo impallidire il disastro ambientale americano della British Petroleum. Solo ipotesi da scenario peggiore, va bene, non è il più probabile. Lo scenario che travolgerebbe il gruppo, presentandogli un conto che sarebbe in questo caso però 7 volte superiore ai profitti annuali. Un gruppo che nel frattempo, scrive Valsania, ha stanziato solo 7,3 miliardi per farsi perdonare dai suoi i suoi peccati, dai suoi clienti. Cioè 7 miliardi non sono pochi per mettere mano a questo scandalo, ma se insomma, il costo per Volkswagen fosse quello che stima Credit Suisse, 90 miliardi, beh insomma non è difficile pensare, cioè, immaginare anche un fallimento, non lo so io, della casa tedesca. Andiamo su altri giornali per altre notizie, per esempio La Stampa, che dedica il secondo titolo, oltre a oscenità, insulti, Senato, la riforma va avanti nel caos, il secondo titolo è dedicato ancora una volta al caso delle armi in America, a quello che è successo nell'Oregon, l'ultima sparatoria. Il titolo che fa La Stampa è: usa le armi che uccidono mille volte più del terrorismo. E già, perché questa è la questione. Secondo i dati del Pew Center negli Stati Uniti, scrive Paolo Mastrolilli, vivono 318 milioni di persone e ci sono in circolazione tra 270 e 310 milioni di armi varie. Questo lo sapevamo. Nel 2013 queste armi hanno fatto 33.169 vittime. Pazzesco, fra 11.000 omicidi, 21.000 suicidi, 500 incidenti e 280 decessi non classificati. Pensate che durante l'intera guerra del Vietnam, morirono circa 58.000 soldati americani, più o meno quello che le armi fanno di vittime in un anno e mezzo negli Stati Uniti, durante l'intera guerra del Vietnam. Le cifre sono queste, in effetti i morti per armi erano 29.000 nel 2004, sono saliti a 33.000 all'anno sempre, diciamo, nel 2013, a confronto con le vittime del terrorismo che nel 2013 sono state 21 negli Stati Uniti. Quindi, insomma, queste sono le cifre. E il giornale, invece, si occupa, diciamo, di ristabilire un criterio di giustizia, se vogliamo, che riguarda l'ENI. L'Italia è infangata per nulla, ingiustizia di Stato, Scaroni e l'ENI sono stati prosciolti dall'accusa di corruzione. ma intanto l'azienda e il paese sono stati messi alla gogna dai magistrati. Il nostro paese, scrive Nicola Porro, ha la straordinaria capacità di farsi del male da solo. La notizia appunto è questa: prosciolti Scaroni e Leni dall'accusa di avere pagato una tangente in Algeria per aggiudicarsi una serie di appalti, 7 appalti mi pare, petroliferi. Resta, credo, l'accusa, il rinvio a giudizio per Saipem e altri 6 imputati, prosciolti invece, dicevamo, Eni, ex amministratore del delegato dell'Eni e appunto l'Eni stessa. È tutto per questa rassegna stampa, adesso c'è il giornale radio, noi ci ritroviamo dopo, verso le 8:15, cominceremo con la legge dell'Emilia Romagna verso rifiuti zero, una buona notizia che ci lascia in eredità questa settimana, a tra poco. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. 'Cause Uptown funk don't give it to you. 'Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Adesso potete, da adesso, cominciare a prenotare anche il vostro intervento all'800 24 00 24, come ogni sabato e domenica mattina, per commentare tutte le notizie della settimana, per stare insieme a noi ed ascoltare le buone notizie, ma anche tra poco, ve lo ricordo, come prima buona notizia, parleremo della legge regionale dell'Emilia Romagna verso rifiuti zero, un obiettivo di raccolta differenziata altissimo, il 73%, una legge che viene giudicata anche insomma da chi si batte da anni per questo obiettivo. Citiamo un nome tra tutti, Rossano Ercolini, il nostro amico, compagno di viaggio, Rossano Ercolini, premio Nobel per l'ambiente, Environmental Prize 2013, ricevuto direttamente dalle mani del presidente americano Barack Obama, giudica questa legge una buona legge e tra poco ne parleremo. Intanto però vogliamo con voi anche ingaggiarvi su questo, cari ascoltatori. Ieri è stata la festa dei nonni, quindi vogliamo i vostri racconti sui vostri nonni, che sono sempre più, o direttamente di voi che siete nonni, sempre più straordinari, perché non ci sono più i nonni di una volta. Io ho raccolto 2 o 3 notizie, sentite qua. Allora, c'è stata recentemente una nonna americana di 92 anni, Harriet Thompson, che ha corso per intero una maratona, 42 chilometri a 92 anni, e ci ha messo poco più di 7 ore. Molte persone che hanno 50 anni meno di lei non riuscirebbero a portarla a termine una maratona di 42 chilometri. Grandissima Harriet Thompson, una nonna. Poi ci sono, perché non parlare anche di questo, sempre in campo femminile, ormai le nonne sono protagoniste anche dei sogni erotici, sessuali, perché no, di molti giovani, perché dopo le MILF adesso ci sono le GILF, e di là dalla regia Peter Bescapè ride, ma è così, tu lo sai benissimo che è così. Ci sono intere, pensate a una per tutte, Jane Fonda, no? Una nonna, così eccitante anche dal punto di vista sessuale, perché no? Poi ci sono le nonne social, restiamo sempre in America, c'è Betty Winkle, 87 anni, è diventata una star dei social network, ha più di 1 milione di follower su Instagram, quindi non soltanto le modelle possono avere, giovanissime modelle, milioni di followers, ma anche le nonne. E quindi andiamo avanti così. Noi abbiamo parlato, i nostri nonni sono Roberto Chiappella, quello della biblioteca fatta in un condominio a Milano, o Antonio Lacava, quello del Bibbio Motocarro in Basilicata. Vogliamo i racconti dei vostri nonni straordinari. 800 24 00 24. Fino a 14 anni avevo l'ora di dottrina, poi la mia prof di italiano era 60, quindi non chiedete se credo alla nazione, mentre pago il pizzo senza avere protezione. Sarà che da bambino ma non ho il muso, sarà che il primo amore m'ha fatto voluto, so come ci si sente quando sei escluso. Io mi rifiuto, il mio peggior nemico è sempre un mantenuto, il mio miglior amico è stato detenuto, so come il mio pianeta se lo son venduto. Io mi rifiuto, io mi rifiuto. Buongiorno al presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Buongiorno a voi, grazie. Con un banale e bieco gioco di parole abbiamo voluto introdurre così, con J-Ax, mi rifiuto, la legge regionale vostra sui rifiuti, sì. verso rifiuti zero, no? L'avete intitolata così? Diciamo, intanto è bella l'apertura, sì. Perché così richiama quello che abbiamo fatto. Guarda, io credo sia in questo momento la legge più avanzata a livello di regioni in Italia. Sì. Ovviamente alle parole dovranno seguire i fatti, altrimenti quelle giusto, che le sto dicendo... sono soltanto slogan, però ci crediamo davvero. Tenga conto che già oggi la raccolta differenziata Emilia-Romagna è vicina al 60%. Noi puntiamo da qui al 2020 di arrivare al 73% di raccolta differenziata, che ci rendiamo conto è un obiettivo molto ambizioso, ma noi siamo convinti che lo si possa davvero fare, perché basterebbe un 3% all'anno in più, sì, di aumento. Per fare se arriveremo a quella cifra, tenga conto che noi riusciremo a fare quello che chiede l'Unione Europea, cioè chiudere più o meno tutte le discariche, tranne qualcuna per i rifiuti speciali, e noi cominceremo anche a spegnere qualche inceneritore. Ah, questo è un tema, esatto, questo è un tema tra l'altro caldissimo, quello degli inceneritori, perché c'è lo Sblocca Italia, ne prevede di 12, sì, anche se, in Italia. Anche se, diciamoci la verità, per non fare demagogia, la mia è una delle poche regioni italiane che non è mai andata in emergenza rifiuti, sì. Anzi, poche settimane fa, sì, ho accettato, seppur per pochi giorni, 50, per poche quantità, 10.000 tonnellate, di prendere i rifiuti dalla Liguria, che stava rischiando di andare in emergenza. Perché la Liguria invece è una regione che in generale, tradizionalmente, in deficit. Tra l'altro adesso governata dal centrodestra. No, ma lo dico perché quando si parla di inceneritori, in passato, forse se qualcuno ne avesse fatto qualcuno, non saremmo oggi a discutere addirittura di aprire in alcune regioni delle discariche che inquinano molto di più. Sì. No, dopodiché, vero... ripeto, noi puntiamo appunto a iniziare a spegnerne nel 2020 qualcuno, partendo dai più vecchi, ma più in generale noi vogliamo introdurre a breve la tariffazione puntuale, che vorrebbe dire in futuro non pagare più per quanti metri quadri è grande, larga la tua abitazione o la tua impresa, o per quanti componenti hai nel nucleo familiare. Noi vorremmo arrivare alla tariffazione puntuale, che significa far pagare davvero quanto uno produce, e per fare questo abbiamo anche previsto un fondo di 10 milioni di euro che dovrà servire in futuro per alleggerire, a dare premi, a premiare quei cittadini e quei comuni, quelle imprese che sono virtuose, cioè che mandano sempre meno rifiuti all'incenerimento e sempre più al riuso e al riciclo. Ripeto, è una legge ambiziosa, ma guardi, noi siamo davvero determinati e convinti per potercela fare. Rientra in quell'idea europea della cosiddetta economia circolare, in cui tutto viene, tra virgolette, recuperato o riusato, e siamo molto determinati. Mi dispiace che ad esempio il Movimento 5 Stelle, che anche in commissione l'aveva definita un'ottima legge, come tante associazioni ambientali, alla fine si è astenuto. Vede, quella io gliel'ho detto in aula, è politique politicienne, è quella per cui se si condivide una cosa l'importante è non fare quello che fa quell'altro, perché in questo momento siamo avversari, ma non credo che sia questa ciò che serve davvero per cambiare questo paese. No, vabbè, diciamo che dal punto di vista politico l'astensione del Movimento 5 Stelle può già essere una mezza notizia, anziché un voto contrario. C'è stato un dialogo con loro sembrava proficuo, poi alla fine Io in aula ho detto che apprezzavo, perché sono aperture importanti, abbiamo avuto l'astensione del Movimento 5 Stelle, l'astensione di altre forze politiche. Dico però che a volte, quando si condivide un obiettivo, anzi a volte lo si spinge perfino più in là, sarebbe utile. Per me la politica è questo, la politica dovrebbe essere riuscire a fare ciò che si racconta. Vede, a Parma, lei ricorderà, nel 2012 il Movimento 5 Stelle fece una campagna elettorale arrivando democraticamente a vincere e a raccogliere tanto consenso. Beppe Grillo dal palco in campagna elettorale due volte urlò che se avessero vinto loro non avrebbero mai acceso l'inceneritore. Dopo e invece l'inceneritore è partito, certo. Ma questo non perché era colpa loro, è perché per me la politica, l'etica pubblica non è solo non rubare, che dovrebbe essere la precondizione, l'onestà, è anche essere conseguenti a quello che si promette. Per questo quando ho aperto la sua intervista le ho detto, guarda, noi verremo giudicati fra 5 anni, però intanto dopo solo 9 mesi in cui io sono stato eletto e entrato in funzione della Giunta, abbiamo fatto a tempo di record una legge che adesso dovrà essere inserita nel piano regionale dei rifiuti, che però anche questo, glielo dico già adesso, così ogni ascoltatore o chiunque vive in Emilia-Romagna potrà verificare, voi stessi, entro pochi mesi approveremo anche il nuovo piano regionale rifiuti, del quale però questa legge era la premessa per incardinare quella che io definisco quasi una vera e propria rivoluzione. Mm. Allora, ci sono tante cose da dire, no? Intanto, sì. In questa legge una cosa che viene sottolineata come molto importante è una legge che pone degli obiettivi, quindi non è una legge che si è immediatamente, l'ha già detto lei, ha messo le mani avanti, bisogna realizzarla concretamente, però certo. Porsi degli obiettivi è importante. Uno degli obiettivi è quello di misurare non più soltanto la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, ma anche proprio la produzione chilo all'anno di rifiuto da smaltire da parte di ogni cittadino, e su questo poi porre la tariffazione puntuale. Sì. Cioè, diciamo, avete messo questi 10 milioni di euro ad alleggerire le bollette, la tari, credo, di chi inquinerà di meno, di chi produrrà meno indifferenziato, di chi farà meglio la raccolta differenziata, in pratica. Esattamente, e ci sarà però anche la cosiddetta ecotassa, che già oggi c'è, però che aumenterà le tariffe per coloro che non vorranno applicare le adeguarsi. Buone pratiche. Sì, che l'Emilia Romagna, possiamo dire, diventi un po' la California italiana per quanto riguarda i rifiuti. Guardi, io spero, diciamola così, noi siamo una regione che per posizione geografica, per qualità della redditività, del benessere, della ricchezza, per il fatto di avere ogni pochi abitanti un'impresa, sì. Insomma, l'Emilia Romagna tra grande industria ma soprattutto piccola e media impresa è una regione che da tra le tre aree più povere del paese a inizio Novecento è diventata oggi una delle 11 aree con la qualità della vita più alta in Europa, però anche per traffico veicolare. Lei sa dove siamo posizionati, il nodo di Bologna è quello dove passano più milioni di auto o di camion al giorno. Abbiamo una regione dove anche per il clima l'inquinamento atmosferico non è poca cosa. Tenga conto che siamo l'unica regione tra tutte in cui io ho fatto applicare adesso l'impossibilità per gli Euro 3 di circolare per diversi mesi, nonostante abbiamo molte deroghe, a partire da chi ha i redditi più bassi sotto i 14.000 euro può circolare lo stesso. E quindi anche il tema, vede, dei rifiuti si inserisce in una politica nella quale ambientalmente noi abbiamo bisogno, in un paese che ha perso troppo tempo, di essere un po' più virtuosi come da tempo fanno diversi paesi europei. Senza demagogia, ripeto, sono tra quelli che ha detto non ci sto all'idea che non si possano ricevere rifiuti da fuori regione. Noi non ne riceveremo tanti e deciderà la regione Emilia Romagna e non il governo. Ma certamente il governo, quando pone un tema di un paese nel quale troppe regioni sono in emergenza rifiuti, perché in passato hanno programmato male o malissimo, no, ma questo, con un tema giusto. Questo va detto chiaramente, riguarda le altre regioni italiane, l'Italia da questo punto di vista è completamente a macchia di leopardo, ci sono regioni che hanno addirittura certificato dallo stesso governo una sovraccapacità di smaltimento, addirittura di incenerimento, come l'Emilia Romagna e credo la Lombardia, regioni che sono in deficit, come lo ha citato lei, la Liguria, ma anche la Campania o la Sicilia. Però lei citava il non appoggio completo del Movimento 5 Stelle, che però pone una critica, così come anche alcune associazioni, diciamo, che vi hanno fiancheggiato e sostenuto anche in questa legge, le associazioni che si occupano da tempo, io ho citato Rossano Ercolini, di portare avanti questa battaglia per capire che i rifiuti sono materia prima, sono una miniera d'oro e non vanno più bruciati. La critica è questa: il conflitto di interessi tra all'interno, diciamo così, delle aziende appaltatrici in Emilia Romagna, credo che siano sostanzialmente Era ed Iren, sono le più grandi, ce ne sono magari anche altre piccole, sì. Le aziende che raccolgono i rifiuti e poi che gestiscono inceneritori e in qualche caso anche discariche, e che quindi ricevono dei pagamenti, degli introiti, diciamo, dai comuni per questo conferimento a smaltimento, e quindi non sarebbero incentivate ad aumentare sul serio la raccolta differenziata. Perché non avete tagliato anche questo nodo? Beh, ma guardi che la regia la tiene la regione, eh? Siamo noi che facciamo la legge, facciamo le leggi, indichiamo il piano regionale dei rifiuti, ci confrontiamo direttamente con loro, e nel confronto che abbiamo avuto io ho detto che adesso si cambiava e si migliorava. Tenga però conto di una cosa: lei stesso riconosceva poco fa che siamo una regione virtuosa, non abbiamo mai avuto bisogno di chiedere ad altri di accogliere i nostri rifiuti, perché tenga conto che noi puntiamo all'autosufficienza regionale per sempre. E se questo è avvenuto, cioè che ci siamo potuti permettere di non avere mai problemi di emergenza rifiuti, nonostante lei sa che la nostra è una delle regioni che produce più rifiuti, no? Da un punto di vista parlo proprio quantitativo, per la qualità della vita, soprattutto per i posti di lavoro che qui ci sono, nonostante la crisi, e le tantissime imprese. E altre regioni hanno chiesto invece a noi, o chiedono ad altri, addirittura c'è chi li porta all'estero per smaltire i rifiuti. Quindi? Questo vuol dire però che la programmazione dello smaltimento e raccolta e smaltimento dei rifiuti di questi decenni è stata molto positiva. Ed Iren ed Era sono delle società, certamente la SPA, dove però la maggioranza spesso più o meno sempre è pubblica, e sono società, come dire, che hanno il loro diritto e interesse a fare le cose per bene, e mi pare che come stiano gestendo lo smaltimento, la raccolta, lo stiano facendo bene. Dopodiché, ripeto, non sono loro che devono determinare le regole dal punto di vista della legislazione. Sì. Però scusi, questo è chiaro, lei dice la regione, queste aziende devono in qualche modo adeguarsi alla nostra pianificazione, però non c'è questo conflitto di interessi, non sarebbe più logico mettere addirittura, diciamo, a comunanza di interessi il comune che guadagna conferendo le materie prime riciclate ai consorzi? Beh, ma guardi che, eccetera, guardi con che, l'appaltatore del guardi che era Ediren investono gran parte attraverso le quote anche societarie dei comuni, gran parte di ciò che raccolgono, introitano, viene investito nelle infrastrutture, negli investimenti, perché, come dire, vi sia sempre più alta la qualità della raccolta e dello smaltimento, cioè investono ovviamente. Quindi gran lei parte è soddisfatto dal lavoro fatto da queste aziende e non diciamo non vede la necessità. Io credo che la prospettiva sia quella di avere delle grandi multi-utility, non delle piccole multi-utility, perché il tema è di stare sul mercato e potersi permettere di avere delle tariffe che siano per i cittadini non troppo alte, ma magari che si riducano. Dopodiché, ripeto, noi facciamo il nostro mestiere, che è quello di legiferare, di regolare, sì, di essere molto severi laddove ci rendiamo conto che qualcosa non funzioni. E vede, io ho detto che inizieremo a spegnere inceneritori. Quanti? Beh, guardi, nel 2020, cioè se noi arriviamo al 73% nel 2020, cioè tra 5 anni, come ho detto, cominceremo a spegnerne. Io credo che due si possano già spegnere in quell'anno, o comunque si possa tendere lì vicino, e poi nel decennio successivo via via se ne può spegnere qualcun altro, perché, ripeto, se la montagna di ciò che viene differenziato, ciò che viene riutilizzato e riciclato aumenta, è evidente che c'è molto meno da incenerire, e dunque anche qualche inceneritore non ci sarà. Senta, un'altra cosa che sta molto a cuore al cittadino è l'abbassamento della tassa, della Tari, cioè ci stanno già scrivendo sull'SMS, ma tra poco ce lo chiederanno anche all'800 24 00 24, perché non abbassate subito la tariffa sui rifiuti, questi 10 milioni di euro? Lei ha fatto una stima, avete fatto una stima di quanto se si potrebbe azzerare per esempio in qualche caso la Tari o in casi particolarmente virtuosi? No, beh, guardi, che qualcosa si debba pagare è evidente che lo si debba fare, però quei 10 milioni di euro, adesso tenga conto che noi abbiamo fatto la legge, faremo il piano regionale dei rifiuti e poi si dovrà vedere quale possa essere l'applicazione puntuale una volta che si arriverà alla tariffazione puntuale durante questa legislatura, cioè quello che giustamente lei definiva pago per quanto produco, no? Ecco, a un certo punto arriveremo alla definizione precisa di qual è il monte di premio e qual è il monte di penalità. Non le so dire in questo momento esattamente quale può essere singolarmente o per ogni famiglia ciò che si risparmia. È chiaro che tanto più... Quanto tempo ci vorrà per avere questa tariffa su tutta la regione? Beh, la tariffazione puntuale durante questa legislatura, adesso applicheremo, ripeto, la legge appena entrata in funzione è stata approvata, dovremo approvare il piano regionale dei rifiuti, faremo in modo di mettere in fila tutto ciò che serve attraverso anche Atersi per andare a verificare. Io credo che la prima cosa che possiate fare, forse dobbiate addirittura fare, perché il segnale poi che arriva direttamente al cittadino, pago di meno, è proprio la cosa più semplice di tutte. Va bene, in bocca al lupo, grazie Bonaccini, grazie per essere stato con noi. Il presidente della Regione Emilia Romagna, avete sentito la legge, l'obiettivo che si pone è di raggiungere il 73% di raccolta differenziata entro il 2020, spegnere almeno due inceneritori, ma attendere anche qualcun altro. 800 24 00 24, che ne pensate, cari ascoltatori? Tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati. Allora, vi chiediamo all'800 24 00 24 se vi ha convinto il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Bonaccini, con questa legge verso i rifiuti zero, spegneremo gli inceneritori, ci sarà la tariffa puntuale, chi più inquina più paga, chi meno consuma e più fa raccolta differenziata meno pagherà, oppure, visto che è una legge che pone degli obiettivi, sì, ambiziosi, ma sono adesso, per adesso, pur sempre solo degli obiettivi su carta, siete scettici, avete motivo di dubitare, per esempio il fatto che non si sia voluto tagliare il cordone ombelicale delle multiutility che gestiscono allo stesso tempo gli inceneritori e la raccolta dei rifiuti, quindi lasciando il business un po' dei rifiuti un po' in un alone di mistero, questa cosa vi fa diffidare della bontà della legge. 800 24 00 24 e poi naturalmente vi aspettiamo anche per i vostri racconti sui nonni straordinari. Era la festa dei nonni e quindi ci piacerebbe che voi ci decantaste le lodi dei vostri nonni, dei nonni coi quali avete a che fare. Nei nonni sempre più in forma smagliante, perché insomma ormai i tempi cambiano. Andiamo con Stefano che ci chiama da Parma. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Benvenuto. Io ero un po' critico nei confronti del Presidente di Regione Bonaccini, nel senso che bellissima la legge rifiuti zero, ma dobbiamo tenere conto che abbiamo acceso tutti gli inceneritori possibili in Emilia-Romagna, la quale è una zona che tra l'altro è una delle cinque più inquinate al mondo. Sì. Oltretutto andare a accendere degli inceneritori al di là dell'inquinamento veicolare è una cosa assurda. Noi sporiamo già nei primi due mesi dell'anno le 52 volte consentite dall'Europa per non entrare in sanzioni. Quindi è ovvio che l'incenerimento, così come è stato concepito per l'Emilia-Romagna, è sbagliatissimo. C'era già nel 2007 una proposta di una tecnologia che non impattava come l'inceneritore, quindi ad emissioni zero in atmosfera. Sì. È stata volutamente cassata perché... Da chi? È stata dalle istituzioni politiche, che siano di destra o di sinistra, perché l'inceneritore è stato voluto sia dalla sinistra che dalla destra. Sì. Però ecco, mi interessa capire questo, da oggi in avanti, secondo lei, Stefano, si volta pagina veramente, oppure cioè, bisognerà vigilare, bisognerà vedere, naturalmente i rifiuti sono una materia prima, una miniera d'oro e quindi non ha senso bruciarli, lo dicono tutti. Ci crede o pensa che si sia voltata pagina, oppure diciamo sta alla finestra a guardare perché giustamente non si fida? La ringrazio di questa domanda, ma io credo proprio che sia un attimino demagogica, nel senso che il rifiuto zero intanto è un'utopia. Abbiamo sempre parlato di rifiuto zero con voi. Sì, però scusi Stefano, qui c'è una contraddizione però. Un conto è dire che si è continuato a investire sugli smaltitori, sugli impianti di incenerimento, sugli inceneritori, e questo è stato un errore. In passato non c'erano forse delle alternative chiare. Adesso che ci sono, si sono capite, il recupero delle materie, si va in quella direzione. Lei dice è un'utopia, non ci arriveremo mai. Questo chi può dirlo? No, lo dice la scienza, nel senso che noi abbiamo delle isole negli oceani che sono... Ma questo è il passato, sa, questo è il passato. No. Bisogna capire cosa faremo in futuro, io credo che sia questa la sfida. Stefano, la ringrazio però, perché lei è giustamente scettico, per l'amor del cielo, ci sta tutta, però voglio sentire anche un altro ascoltatore prima di andare sulla pausa. Giorgio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, io penso che il problema dei rifiuti, quelli riciclabili, sia risolvibile con la gestione data ai privati, con moltissimi centri sul territorio che monitorano i condomini, le aziende, le fabbriche, vanno a ritirare oppure ricevono questi rifiuti. Sì. E poi li danno alle aziende che li smaltiscono, li riciclano. Ma è già così, l'unica differenza è che non sempre sono i privati, in alcuni casi sono aziende pubbliche, semipubbliche. Per dire, a Milano, la città dove vivo, la raccolta differenziata è salita moltissimo, la fa l'azienda pubblica e per ora ha dato buona prova. Poi si può fare di meglio sicuramente, però io vivo a Milano e le assicuro che ci sono pochissimi centri, pochissimi. Centri di cosa? Centri di raccolta di questi rifiuti riciclabili. Se fossero vicino, diciamo, nei quartieri, delle cose, diciamo, no, adesso io sto parlando questo, su questo lei ha ragione, su questo lei ha ragione, su questo lei ha ragione. Io sto parlando della raccolta, diciamo così, porta a porta modello milanese, cioè nei condomini dove si fa la raccolta differenziata. Da alcuni anni si fa anche il compost in alcune parti della città e i risultati, stando alle cifre ufficiali, sono buoni. Quello che lei dice è un'altra cosa: i centri di raccolta dove si possono portare e anche recuperare, riutilizzare, dare nuova vita agli elettrodomestici, oggetti, biciclette e quant'altro. Questa è una cosa su cui bisogna ancora sicuramente investire molto. Grazie Giorgio per essere stato con noi. 800 24 00 24, tra poco, dopo il traffico. Gran Moravia con l'etichetta multimediale ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Una pagnotta e un sogno in tasca, lungo la strada che se ne va. Son partito dal paesello, con i miei 20 anni verso la città. Bidello, sì, faccio il bidello. Ditemi voi se c'è un lavoro più bello. Va bene, questi sono latte e i suoi derivati, con una pagnotta e un sogno in tasca, quello di fare il bidello. Certo, il bidello non sarà il lavoro dei sogni, però pur sempre un lavoro, anzi si può fare dignitosamente, tra l'altro si fa in un ambiente bellissimo come è quello dei giovani, nelle scuole e anche nelle scuole dove ci stanno i bambini, scuole materne. Questo però è un si può fare interrogativo, ma si può fare una cosa del genere? Perché va bene i diritti. Ieri Roma ha vissuto una giornata di scioperi, i diritti dei lavoratori, giustissimo, è tutto sacrosanto, bisogna salvaguardare gli stipendi e tutto. Però quando si sente dire che per una protesta sindacale dei bidelli di Padova ci sono dei bambini che rimangono senza merenda e col pasto freddo, allora uno si fa delle domande. Bambini di 4 anni col pasto freddo anziché riscaldato per una protesta sindacale, è possibile? Questo è quello che denunciano due parlamentari, uno del PD ed uno dell'UDC. 9 scuole di Padova, niente pasti caldi e merendini per i bambini. È possibile? Io lo chiedo al segretario aggiunto della CISL Scuola di Padova Rovigo, Manuela Mazzuccato. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. È corretta la denuncia che hanno fatto questi due parlamentari oppure sono stati travisati i fatti e non è così? Non ci sono questi bambini senza merende e senza pasti caldi? Guardi, io ci tengo a precisare intanto una cosa: non si tratta di una protesta sindacale, nel senso che non è in atto alcuna mobilitazione, non abbiamo come sindacati indetto alcun periodo di agitazione. Si tratta semplicemente di una questione che purtroppo adesso sta emergendo in maniera drammatica. Noi ci stiamo occupando di questa vicenda dell'appalto per quanto riguarda le mense scolastiche del Comune di Padova ormai da più di un anno. Sì. Sta succedendo semplicemente questo, che il servizio mensa è un servizio che è in capo all'ente locale e quindi è il comune che se ne deve assumere appunto la funzione in tutti i suoi aspetti. Sì. Compreso diciamo servire il perché i pasti arrivano regolarmente, sì. Sono pasti forniti, sì, dall'azienda. Sì, c'è un'azienda, adesso non so se si può fare il nome, sì, comunque, sì, insomma, beh, certo. C'è un'azienda che fornisce appunto i pasti. No, le dico cosa sta succedendo. Sì. Le dicevo appunto, il servizio mensa è in capo all'ente locale. In questi anni il comune si è avvalso della collaborazione del personale collaboratore scolastico, l'ex bidello, nel frattempo ha cambiato i commessi, nome. Commessi bisogna dire adesso, sì. No, collaboratore scolastico è anche, sì, insomma, la denominazione ha un suo significato. No, ma io l'ho detto così perché io che ho una certa età sono legato alla memoria del bidello. Sì, vabbè. No, ma è chiaro che ci capiamo meglio se diciamo bidello piuttosto che collaboratore scolastico, ma era per dire che non è più il bidello magari di 20 anni fa o 30 anni fa, quello che... Sì, no, però veniamo alla questione. Perché la questione è questa, che sì, fino all'anno scorso il comune si è avvalso anche della collaborazione appunto di questo personale per svolgere appunto tutte le mansioni, sì, che riguardano la mensa. Tengo a precisare che però queste sono mansioni che il collaboratore scolastico può svolgere se dà la disponibilità, in quanto si tratta di una mansione aggiuntiva rispetto ai compiti previsti dal proprio mansionario, il mansionario previsto dal contratto collettivo nazionale. Sì, ma infatti sta proprio qua il punto, nasce, perché ecco, sì, pur essendo guardi, compiti aggiuntivi, io capisco che non, sì, io so come funziona, perché ho una bambina che va in una scuola, certo, materna, so che c'è un personale apposta, sì, per scodellare i pasti ai bambini, e che invece i commessi, i bidelli, come vogliamo chiamarli, si occupano delle pulizie, della sicurezza, cioè dell'ingresso e dell'uscita nella scuola. Però mi domando se è possibile arrivare a un punto nel quale insomma, guardando, sei un dipendente comunque pubblico, hai un lavoro sicuro, magari non avrai uno stipendio altissimo, però fuori c'è gente senza lavoro, disoccupata, partite IVA che non riescono a farsi pagare, non si pagano, sì, nemmeno, guardi, le spese. Allora sì, mi domando la se è possibile arrivare a questo punto. Guardi, la posso interrompere? Sì. Non, io ci tengo veramente a sottolineare il fatto che non si tratta di cattiva volontà da parte del personale. Si tratta del fatto che in questi anni il personale, e parlo di Padova in particolare, ha sempre garantito il servizio fino allo scorso anno scolastico, senza ricevere, ci tengo anche a dire questo, un centesimo di compenso come invece prevede insomma, una convenzione che viene stipulata appunto per svolgere questo servizio, la cosiddetta funzione mista. È sempre stato svolto. Ora però il personale collaboratore scolastico in questi anni è stato notevolmente ridotto di numero. Abbiamo organici risicati. Questo il problema è vero, non questo è vero in tutte le scuole, allora, purtroppo. Problema, nonostante la buona scuola, sì, poi di fatto siamo alle prese con tagli. Ecco, la buona scuola del personale ATA non ne parla proprio. Anzi, allora, dire questo, nonostante i tagli subiti negli anni, il personale ha sempre garantito il servizio. L'anno scorso è cominciato ad emergere il problema perché il numero proprio di unità di personale in servizio non garantisce più di poter svolgere tutto quello che viene richiesto all'interno delle scuole. Cioè, quindi lei però mi sta confermando che per questi motivi quello che è successo in effetti è quello che hanno denunciato i due parlamentari, cioè in effetti hanno smesso di fare questo servizio i commessi. Sì. L'hanno smesso perché si tratta, ripeto, di un'attività aggiuntiva che si svolge su base sulla disponibilità, sulla base della disponibilità personale. Ma veramente questo personale l'ha sempre svolto questo servizio, però ora è arrivato il momento di dire non riusciamo più con le risorse che abbiamo a disposizione a garantire questo servizio. E le dico un'altra cosa, la legge di stabilità dello scorso anno ha stabilito che questo personale collaboratore scolastico, nel momento in cui si assenta per qualsiasi motivo, non può essere sostituito per i primi 7 giorni di assenza. Allora vogliamo sottolineare anche questo. 7 giorni in effetti sono tanti, perché sono conto anche un giorno, due, 7 giorni cominciano a essere tanti. Io devo chiudere però purtroppo. Le dico un'ultima cosa, sì, indipendentemente da quante sono le persone assenti in quel momento nella scuola, quindi non parliamo magari di una sola persona assente, magari di più persone che contemporaneamente... Va bene, io devo chiudere purtroppo, la ringrazio Manuela Mazzuccato, segretario aggiunto della CIS Scuola di Padova Rovigo, anche per essere venuta comunque a spiegare questa situazione. Questo è quello che succede nelle scuole materne, negli istituti comprensivi italiani, in particolare a Padova, giudicate voi, 800 24 00 24. Ci risentiamo con Davide Van de Sfros dopo il GR delle 9, a dopo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Oscar, ce l'ha con te questa? Ma no, ce l'ha con no, te, no, ce Alessandro, l'ha con te. Dai, ma non è vero, dai. Allora, ce l'ha con tutti e due. Ah, sì, perché c'è una grande novità. Dal lunedì al venerdì alle 8:15 su Radio 24. C'è Attenti a Noi Due. Che poi siamo noi due, Oscar noi Giannino due. E Alessandro Milan. Non perdetevelo su Radio 24 dalle 8:15 lunedì e venerdì. Attenti a Noi Due. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Santa Claus conti in mano un Montenegro e il Quintai smaci in sul bancone. Manu Perà alla rotula sinistra e lo fa anche la liposuzione. il dottore finisse un bombardino con una tuta che il barbierino grosso. Non avrei fatto certo il ginecologo se avessi avuto fantasia. Metà della luna la vedo mena perché ormai l'entra da via nel calderon della stria. Nel calderon della stria. E buongiorno cari ascoltatori, questo è Davide Van der Sfros che è tornato a trovarci. Ciao Davide. Ciao a tutti voi. Con il calderon della stria, una canzone che devi sempre tradurci tutto, ricorda. Guarda, c'è il calderon della barca, c'è il calderon della stria, che è praticamente il calderone, è il pentolone della strega alla fin dei conti, no? Lì dove dentro tutto si mescola, dove tutto avviene. E questa canzone sicuramente è abbastanza complicata, non tanto perché è un po' in dialetto, un po' in italiano, è proprio complicata perché è una sorta di flusso di pensieri, di idee che ho dovuto poi psicanalizzare analizzando anche me stesso. Cosa avrò, cioè, sei dovuto andare cosa dallo psicanalista dopo che hai scritto questa canzone, dice, ma perché Davide Van der Sfros cosa avrò scritto? Voluto dire con questa canzone? E piano piano sono arrivato a capire che è un po' proprio tutto il rimescolamento, il fermentare di quello che stiamo vivendo, di quello che abbiamo vissuto tra inconsci, subconsci e tempo che passa, che va. E tu di emozioni ne stai vivendo molte, perché stai girando ormai da un bel po' di tempo e ci sarà un appuntamento tra poco all'interno di Expo con un tuo progetto che è Terra e Acqua, che insomma è un progetto grosso, multimediale, ci sarà anche una serie di documentari, dovrebbero esserci dei concerti, dei convegni, insomma raccontacelo un po'. Sì, vabbè, Terra e Acqua, come abbiamo già raccontato anche in altre occasioni in questa sede, è questa docu-fiction che da 3 anni io sto girando con una piccola troupe diretta dal punto di vista della regia da Dario Tognocchi. Ci muoviamo sui rami di Como, Lecco, Insubria, Brianza, Valsassina, insomma siamo andati dappertutto in questi 3 anni. Adesso che il lavoro è per così dire finito per il momento, si sogna una destinazione televisiva degna, decente, ad un orario non proibitivo, ecco, e poi ci sono già le guide cartacee che la gente ha dimostrato di aver apprezzato. C'è un sito pure. C'è un sito, itinerari folk, e poi da lì tutto quello che dovrebbe diventare il lavoro anche proprio di espansione di questo viaggio. Dentro al viaggio noi abbiamo sicuramente preso in considerazione luoghi, lavori, personaggi, gastronomia, leggende, tutto quello che riguarda la storia del territorio e anche la geografia, la morfologia. Expo di Lombardia è stato invece, sempre col timbro di Terra e Acqua, è stato quel viaggio che noi abbiamo fatto nei capoluoghi lombardi, coinvolgendo i cosiddetti musicisti a chilometro zero, ovvero quei musicisti che di città in città potevano rappresentare proprio quella zona e venivano chiamati appunto sul palco nello show. Cosa succede il 17? Succede che bisogna allargare il palco, perché non c'è posto anche, per tutti. Anche, sicuramente sì. Bisognava proprio fare i fuochi artificiali di chiusura. Quindi un riassunto finale reinvitando quelli che sono stati i nomi praticamente più significativi, più rappresentativi. Teniamo presente che però gli altri hanno avuto la possibilità di suonare durante l'estate all'aperto in giro nel grande magma di Expo. Quindi sul palco con me grandi ospiti come il mitico Nanni Svampa, Luca Ghielmetti, Treni in Corsa, Sull'Utumana e via dicendo. Ospiti speciali dalla Sardegna, proprio perché Expo non è un reticolato che vuole chiudersi, ma appunto per creare un ponte. Abbiamo una formazione acustica dei Tazenda che hanno accettato di buon grado di venire a questo diciamo. L'unica eccezione, dicevo prima, al paradigma tutto lombardo di Davide Van der Sfros, che però poi con le sue influenze musicali in realtà racconta molto di più della sola Lombardia. Davide, adesso sentiamo anche un po' di ascoltatori, poi però ti voglio chiedere, perché questo viaggio Terra e Acqua alla riscoperta o alla scoperta di quelli che una volta a scuola si sarebbero chiamati studiando usi e costumi, no? Si diceva, si studiava la geografia, usi e costumi, e prepara date la risposta, ma esistono ancora, cioè nell'epoca super globale dove tutti guardano lo stesso smartphone, dove tutti commentano le stesse notizie, le stesse cose, anzi rispondimi subito, in che stato di salute hai trovato, diciamo, le tradizioni? Guarda che le tradizioni, quelle che sono le feste comandate, quelle che sono le feste folk, come dire, prova a andare tu a Ivrea a dire che non si fa più la guerra con gli arance. Prova tu a andare a dire che non si fanno i fuochi dell'isola a Comacina, o piuttosto che nel giorno del triduo della Madonna del Soccorso non si va alla Madonna. No, queste cose dici che sono, noi che siamo a Milano abbiamo un po' perso forse, ma Milano, perché è più tipico delle piccole Milano, delle piccole, vabbè, può far perdere un pochettino la Trebisonda proprio perché diventa un calderone della strega, sì. Ma voi dovete, è sufficiente andare leggermente fuori laddove succedono determinate cose nella periferia e voi trovereste sicuramente una grande, come dire, un grande rigore liturgico per quelle che sono gli usi, i costumi, le feste. Ah, per noi non parliamo poi di quello che ho trovato al sud, laddove la tal festa deve essere per forza celebrata nel migliore dei modi, tantissima gente, quindi la festa paesana diventa proprio il momento nel quale tutti questi riti, queste tradizioni si condensano, e rivivono. La sagra l'ho vista in buona salute, specialmente se sono sagre storiche, anche nei miei paesi, ma anche Ramo di Lecco, Ramo di Como, in Subria, dovunque, insomma. La sagra più strana che hai visto in Lombardia? Oddio, ce ne sono di tutti i colori. Adesso dovrei pensarci un attimo, poi dopo se mi viene in mente, perché le ho viste proprio di tutti i colori, di tutti i tipi. Allora, intanto avete sentito un suono strano, ma è semplicemente che stiamo aggiustando la cuffia di Davide Van des Fros. Sentiamo un ascoltatore prima di andare sulla pausa del traffico. E abbiamo Cinzia che ci chiama da Catania. Buongiorno. Buongiorno. Sì, perché buongiorno. Stamattina abbiamo parlato sia di legge sui rifiuti zero in Emilia Romagna, sia del caso dei commessi, dei bidelli delle scuole di Padova che in questo momento, per una forma, diciamo, di protesta, stanno non servono i pasti caldi in queste scuole, una forma di protesta che ha fatto un po' discutere. Cinzia, su cosa voleva intervenire? No, io buongiorno, sono una collaboratrice scolastica, sì. Un ex insegnante che però da 25 anni fa la collaboratrice scolastica, sì. E faccio il mio lavoro con grande orgoglio. Come me ci sono tante persone. La situazione è veramente incredibile perché non so, il nostro contratto è fermo da tempo, sì. e quindi io ad esempio spesso compro quello che mi serve per lavorare perché l'amministrazione non può fornire, e questi problemi ricadono su tutti, sui presidi, sugli insegnanti, su noi collaboratori. Perché si parla tanto di sicurezza dei bambini, ma lei mi dica, se una scuola materna, sì, con due sole collaboratrici scolastiche, con oltre 250 bambini, ecco, lasciamo stare gli adulti. Perché nel suo caso, nella sua scuola siete in due, con 250 bambini? Oltre 200 bambini, due sole collaboratrici, un part-time. E voi siete addette diciamo anche alla sicurezza per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita? Principalmente alla sicurezza, a tutta, cioè, se uno si ammala praticamente locali, è un bel problema, se anche uno dei due si ammala. È un problema perché sicuramente si viene sostituiti, ma da personale interno, e quindi si va a privare. Perché il nostro è un istituto con media, elementari e materna, quindi quando uno di noi si ammala, sì, viene sottratto da un altro plesso un collaboratore, e quindi viene comunque. Però che ne pensa, scusi, di questa forma di, diciamo così, di protesta da parte dei suoi colleghi di Padova che non servono i pasti caldi? Io ho volontariato nella scuola, cioè ormai i nostri straordinari non vengono pagati. Io ricordo che tanti anni fa in una scuola a rischio, sì, a rischio vuol dire in zone deprivate, io ho scoperto una situazione molto grave in uno stanzone attiguo alla mensa dei bambini. All'epoca io feci volontariato. No, però io le ho chiesto, scusi, cosa ne pensa di questi suoi colleghi? Perché sembra un punto un po' limite quello lì, no? Cioè non servire più i pasti. Allora bisogna fare volontariato per lavorare. Cioè questi signori dovrebbero fare questa mansione. Quindi lei gli dà ragione, a queste persone. Io gli do ragione. No, ma è legittimo, è semplicemente... Io più che altro gli dico che sono molto coraggiosi questi colleghi, perché noi in Sicilia non riusciremo a fare un incompattati una tale protesta. Io faccio loro tanti complimenti, perché la nostra è una categoria bistrattata. Sì, però tanti complimenti, però poi di fatto chi ci rimette sono i bambini di 4 anni che non hanno i pasti caldi, e questa sembra una cosa veramente paradossale. Questo poi non toglie, anzi grazie Cinzia per aver chiamato, tutto quello che c'è dietro, la mancanza, le carenze di organico eccetera eccetera, però io credo che appunto lasciare i bambini senza pasti caldi sia un punto di non ritorno. Questo diciamo riguarda, ecco, Davide è partito. Siamo l'asilo dei contrabbandieri, siamo venuti con la bricolla tutta piena di merendine. Forse le mangiamo, forse le vendiamo, sicuramente sosteniamo la causa di tutti quelli là, però gen voglia di mangia. Davide Vades Fross, traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Oggi in studio con noi c'è anche Davide Van der Sfross. Bonjour. Che avete appena sentito in un commento musicale alla notizia delle scuole di Pavia. Ricordiamo subito anche i tuoi appuntamenti. Abbiamo detto 17 ottobre a Expo, era Padova, scusate, non Pavia, ho sbagliato, grazie Peter. L'altro appuntamento è il prossimo, il primo è il 10 ottobre a Bassano del Grappa, perché è una cosa particolare. Ah, lì abbiamo a che, che fare con il primo raduno nazionale dei cowboy, cioè comunque dei Death Fans, dei fans, in questa serata, dove praticamente al di là del concerto canonico questi fanno un mega raduno, come se fossero dei guidatori di Harley Davidson che fanno i raduni, queste cose. Tanto più che il giorno dopo c'è anche annesso il pranzo. Sì. E quindi vivere... Si magna a proposito di Padova. E praticamente questa è una... Cioè, è una novità anche per chissà me. Chissà se porterai più cowboy tu al raduno dei fan o agricoltori, Carlin Petrini, che sai da in questi giorni sta radunando 2500 contadini, giovani contadini del mondo, con l'iniziativa Terra Madre, proprio anche lì legati a Expo. Faremo la conta, poi vedremo se chi vince fra Davide Van der Sfross. Io spero che vinca lui, assolutamente. Perché comunque queste cose rurali, country, così hanno ragione comunque di esserci. Sì. E di avere tutto l'audience possibile. Allora, ancora ascoltatori. Serena da Savona, buongiorno. Buongiorno, ciao Alessio. Di solito io ti scrivo su Twitter, sono quella che va in bici. Ah, non certo, come no, la nostra twittatrice del sabato e della domenica. Oggi sei in diretta, in onda, bello oggi sentire la tua voce, diretta, Serena. Finalmente, sì. Oggi niente bici, allora ho detto lo chiamo. Perché piove, vero? Una giornataccia oggi. Una giornataccia. Anche da te, qua a Milano piove, eh? Brutto. Qua è brutto, non è proprio, non piove, però è brutto, bruttino, sì. E niente, io volevo parlare dei nonni, sì. Purtroppo io li ho persi tantissimi anni fa, tutti quanti, sì. Uno addirittura non l'ho conosciuto perché è morto 2 mesi prima che io nascessi, e particolarmente volevo parlare di mia nonna materna, che ha vissuto sempre con noi, finché è stata in vita, e a lei penso ogni giorno, così. Ah, cioè un ricordo importante, cioè, te lo porti dietro ogni giorno, è una cosa evidentemente significativa. I nonni sono sono? Qualche cosa di fondamentale. Davide, tu hai qualche aneddoto sui nonni? Io mi ricordo mio nonno Giacomo, che in realtà però si chiamava Stefano, ma adesso questa è una vecchia storia, che tutte le feste come il Natale, la Pasqua, finito di mangiare, sfidava a braccio di ferro tutti, tanto il figlio quanto il genero e i nipoti, con attacchi d'asma non indifferenti, ma vincendo a volte. Ma lo lasciavate vincere? Era veramente una pezza, un armadio. Ma poi quello che mi ricordo era di un nonno proprio in quel di Cesenatico, che la mattina con un mio amico aveva fatto una roba tipo i 9 colli in bicicletta, al pomeriggio col nipotino era in giro ancora così per relax, si è fatto da Cesenatico a Rimini e ritorno, capito? C'è una generazione, stiamo parlando di gente di quasi 80 anni. C'è una generazione, chissà se noi saremo all'altezza di questa generazione di nonni. A volte penso di no, perché sembra che siano stati fatti sul lago, ho delle cose, delle prove incredibili, gente che ha un ictus se ne accorge quattro giorni dopo, stava andando avanti a lavorare normalmente, ultra ottantenne. Ci sono persone che a 90 anni mangiano la cipolla cruda e dicono ogni tanto mi resta su stomaco, cioè, meno male, siamo veramente disperati perché ci sono una tempra che non credo ci sia più. Nonni straordinari, e anche questo vi chiediamo oggi, cari ascoltatori, all'800 24 00 24. Serena, so se volevi aggiungere qualcosa, ci salutiamo. Sulla tua nonna. Tanto, appunto, a volte basta un niente per farmela venire in mente, e il mio rammarico è di non averle mai dimostrato così tanto questo affetto. Quanto ci tenevi, perché quando si è giovani, si è bambini o anche giovani, a volte si è un po' sprezzanti con gli anziani, questo però fa parte delle cose. Tua nonna sicuramente l'avrà capito. Grazie Serena, un abbraccio. Ciao, buona giornata. E buone pedalate quando torna il bel tempo. Marco da Parma, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Intanto vivi nonni, però ho chiamato per i bidelli. Sì. Solo una riflessione, io ho 49 anni, quando andavo a scuola 500 persone in un istituto tecnico, c'erano tre bidelli che facevano le pulizie, ci davano la merenda, tenevano aperta la scuola, ci facevano entrare e uscire. Oggi nella stessa scuola dove la mia figlia ce ne sono 8, le pulizie sono demandate a un'agenzia esterna e questi qua stanno seduti. E siccome faccio parte della partita IVA, di quelli che fanno fatica, che io ho citato spese, prima, bravissimo, e poi sentire questi qua che si lamentano e stanno sedute 6 ore al giorno, 7 ore al giorno. Guarda Marco, il sospetto, la sensazione, a volte anche io, una figlia di 4 anni, Viola, che va alla scuola materna, a volte è quello, cioè anche confrontando con il nostro ricordo, un tempo forse c'era meno divisione dei ruoli, il bidello faceva un po' tutto, e sembrava sempre un pochino più indaffarato. Oggi la sensazione è quella che non ci sia tutto questo lavoro, però non lo so, potrebbe essere una sensazione sbagliata. Fatto sta che a Padova succede questa cosa, per cui appunto per una protesta in questo momento non si stanno servendo i pasti caldi ai bambini, e qua la notizia da cui siamo partiti, credo che bisogna valutare poi caso per caso, perché le generalizzazioni poi sono, sembra una frase fatta, ma è così, non credo che ci siano intere generazioni di bidelli che non hanno voglia di lavorare, ci sarà sicuramente qualcuno che se ne approfitta. Marco, grazie per essere stato con noi. Comunque Davide, questa è bella, questa dobbiamo farla. La mappa questa settimana, qualcuno si è divertito sui social a mettere, diciamo, online una mappa della metropolitana di Milano alternativa, ed è un gioco che ogni tanto ricorre. Hanno cambiato i nomi della metropolitana con tutto quello che succede normalmente in quelle fermate, ma che non si può dire ad alta voce. Per esempio, che ne so, Garibaldi, grattacieli vuoti, perché ci sono i famosi grattacieli, quelli dell'Unicredit, cioè, oppure qualcosa di un po' più scabroso, a Corvetto coltellate, perché sì, che non è a gratte ma è coltellate, esatto, sì. È sempre ate, ma oppure inganni rapini, oppure che ne so, a Moscova, uè, è qui che c'è la figa, perché è un life motive, ovviamente, sì. Importante anche quello, ci sono tutti i locali notturni, si potrebbe fare una mappa così anche per i luoghi lariani, che assolutamente sì, basta scorrere proprio sulle strade statali, quelle che costeggiano proprio il Lario, e abbiamo tutto una sorta di mappatura delle frasi e dei cosiddetti proverbi proprio che riguardano paese per paese. Ovviamente capirete che non sono stati stilati dall'azienda autonoma di soggiorno, ma dai vicini incazzosi, come un po' di campanilismo. Ecco, tu mi dicevi questo, che nascono spesso queste cose dalle male lingue. Sì, l'eschen della mala fortuna, d'inverno senza il su, d'està senza la luna, questo lezzeno della mala fortuna che non ha il sole in inverno ed estate non gli arriva la luna, giusto? Poveretti. Per cui sono i fichi che crescono in momenti sbagliatissimi durante l'anno. Oppure abbiamo: se vuoi patire le pene dell'inferno, varenna d'estate, bell'anno d'inverno, musso, mus, mengenè, mengenfus, meno ce n'è, meno ce ne fosse. È un po' come a Gambara, sempre metropolitana di Milano, che è soprannominata aspettando la morte, che io non so cosa c'è a Gambara, ma paese. Inquietante, sì, inquietante. Sì, è un paese di Dylan Dog praticamente. Porca miseria, ma ce ne sono di bellissime, andatevela a scaricare, perché insomma è esilarante, soprattutto per chi sta a Milano, per chi conosce la città, ma un po' per tutti. Sì, io che vengo dal paese ho già una sorta di soggezione nei confronti di questi treni sotterranei, sì, con questi nomi che mi ha sempre un po' fatto paura, no? Missori. E adesso con Cordusi. Questa mappa è diventata veramente la mappa dell'inferno, capito? E lo è, e lo è, e lo è. Interessantissima, allora, comunque. 800240024, cari ascoltatori, ci ritroviamo tra pochissimo, dopo la pausa, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Beach on the beach, sotto solo la pelle brucia, sotto la luna ancor di più. Quando fuori flexi Superman, senza fare love non si può stare. Che sentita oggi che piove, è un po', vuol dire, un po' dissonante. Beach on the Beach, la nostra sigla estiva che abbiamo usato tutta estate, dalle 18 alle 20:30 nell'altro orario di Si può fare, perché vogliamo commentare una notizia balneare, una buona notizia. Si può fare l'unico, l'inimitabile programma che è sempre a caccia di buone notizie. Allora, è intanto la stagione estiva che è andata bene nelle nostre spiagge, i turisti in crescita, operatori soddisfatti, e in Liguria la stagione balneare che si allunga ad ottobre con delle iniziative particolari. Ne parliamo con il presidente del sindacato italiano balneari della Liguria, Enrico Schiappapietra. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. In collegamento da, sicuramente da, non ci deluda, da una spiaggia in questo momento, o è a casa che sta facendo colazione con la famiglia? In collegamento da Varazze sulla spiaggia. Ah, che meraviglia, che meraviglia, lo sapevo, lo sapevo. Non ci poteva deludere. Senta, però, prima di parlare di questa, che ho detto è una buona notizia, volevo chiederle un commento sulla notizia, diciamo, più importante che questa settimana riguarda la Liguria, perché c'è stata una petizione, diciamo, contro il turismo di massa alle Cinque Terre, che insomma, ha fatto un po' discutere, perché va bene lamentarsi dei treni pieni, rifiuti abbandonati, le Cinque Terre sono un posto fragile, sicuramente, dal punto di vista anche proprio del territorio, però una petizione contro i turisti è sembrata un po', come dire, a rischio autogol, autolesionismo. Lei ha sentito la notizia, che ne pensa? Ma non è una novità che ci si lamenti del troppo afflusso. Succede a Venezia, succede a Firenze, succede a Roma, succede in quei posti dove ci sono sicuramente da far sposare esigenze turistiche e di chi ci abita e chi ci risiede. Le Cinque Terre sono la nostra perla, Liguria è un posto splendido, per questo tante persone vogliono vederla. Bisognerà cercare di far convivere le due esigenze, spetta un po' alle amministrazioni locali, all'ente parco, a trovare le soluzioni, però per noi i turisti sono la vita. Si può fare, insomma, secondo lei si può trovare un equilibrio? Io credo, spero proprio di sì, però insomma, rischiare di perdere i turisti, forse questo non è granché, no? Ma è come se negli Stati Uniti ci dicessero non andate più a vedere il Gran Canyon perché non va troppa gente, insomma. Non si può fare questa cosa, non si può fare. Troviamo delle soluzioni, ma così non si può fare, insomma. Esattamente, esattamente. Però c'è sempre un blues dietro le cose, e questo è il blues delle Cinque Terre, si intitola Tutti giù per terre. Tutti giù per terre, non ne possiamo più, continuano e continuano a venire giù. Se vuoi visitare le terre, guarda un po' le tue, non possiamo più fartene visitare cinque, ma soltanto due. Vabbè, potrebbe essere il blues delle Cinque Terre. Vabbè, questo è Davide Van der Sfross, che tutto improvvisato, assolutamente rigorosamente. Però insomma, questa era la notizia, ma in realtà Schiappapietra, la notizia bella è la stagione balneare che è andata bene un po' a tutta Italia, anche lì da voi in Liguria. Che bilancio fate? Poi parliamo anche dell'estensione a ottobre con iniziative particolari. Ma per noi è stata una splendida estate, sia dal punto di vista meteorologico che dal punto di vista delle frequenze sulle spiagge. abbiamo registrato circa un più 20% rispetto all'anno scorso. Bene. Che è vero, era stato un anno disastroso dal punto di vista meteorologico, però questo ci riporta al volume di persone che frequentano le nostre spiagge del 2013, del 2012, che erano stati anni positivi. Quindi certamente un risultato importante. Ecco, cioè a noi fa piacere, diciamolo, spiagge piene, ci fa piacere, la gente si muove, turisti stranieri che vengono spendono qualcosa in Italia, ma anche le famiglie italiane che hanno qualche possibilità in più di venire a fare una vacanza magari in Liguria, che non è uno dei luoghi più economici che ci siano, però insomma è pur sempre un luogo di una grande attrazione. Poi se uno vuole stare tranquillo in un posto dove ha 20 metri quadri attorno liberi, sicuramente non viene lì da voi, almeno, però è una questione di, insomma, poi di gusti personali. Liguria, spiagge piene, ma un po' in tutte Italia. Bene, mettiamo un punto. Invece, per quanto riguarda l'iniziativa di estendere, diciamo, la stagione balneare anche oltre che a ottobre, con delle iniziative particolari, che va un po' anche nel senso, come forse diciamo prima, di diluirli questi turisti e di non affollarli tutti ad agosto sulle Cinque Terre, creando magari anche sì qualche problema. Cosa vi siete inventati per ottobre? Noi è già il secondo anno, perché abbiamo cominciato l'anno scorso in via sperimentale e lo confermiamo quest'anno, che in Liguria ci siamo inventati l'elioterapia, che in sostanza è l'esposizione al sole nei mesi non balneari, e quindi da ottobre fino al prossimo mese di marzo. La maggior parte degli stabilimenti balneari che aderiscono a questa iniziativa lo faranno per i prossimi mesi. Sono circa un centinaio e quindi sono un numero importante, sì. E saranno accoglienti e attrezzati anche fuori stagione, quindi si potrà frequentare le spiagge anche in periodi non prettamente balneari. Ma l'elioterapia ha a che fare col sole, no? Certo, esatto. Sì, io non, cioè, non con elio e le storie tese, no, esatto, a che fare, cioè, col sole. Ma, quindi basta quel sole che c'è in inverno per fare l'elioterapia? È quello che c'è da noi, sì. Ah, perché voi avete un'apertura, uno squarcio sulla Liguria, un filo diretto col sole. Vabbè, insomma, beati voi. No, la nostra condizione meteorologica è particolare. La Liguria, sì, ha questo vantaggio di essere protetta dalle montagne a tramontana, quindi a nord. Sì. È già al tempo dei primi turisti inglesi o quant'altro che frequentavano la nostra riviera, era conosciuta per questo clima mite anche nel periodo invernale. Che bello. Il mare d'inverno, come un film in bianco e nero visto alla TV, vedi. Questo è Davide che mi sconfina su Ruggeri. Sì. Grazie, Schiappapietra, buongiorno, grazie per essere stato con noi, il presidente del sindacato balneari della Liguria. Questa, insomma, era la notizia. Davide, ma secondo te come la vedi questa? Adesso ti metto sul piedistallo dell'opinionista, no? Questa questione dei turisti, sì, turisti no, cioè, sembra quasi che è un po' come la questione degli anziani nei condomini che si lamentano per i troppi rumori, per la musica troppo alta. Siamo un popolo, stiamo invecchiando, riusciremo ad essere ancora, diciamo, un po' a dare qualche segno di vita ogni tanto su Marte? Io credo questo. Mi baso sul mio microcosmo lariano. Ci sono piangistei per tutto il periodo, soprattutto quello invernale, dove c'è una vita sociale che è molto simile a quella del Kosovo. Si vede benissimo che di locali aperti non ce ne sono tanti, se non i nostri bar, le nostre cooperative, che poi a un certo punto immancabilmente chiudono o sono frequentate proprio poco. L'estate credo sia andata meglio, perché io ho visto tanta gente girare, prendere traghetti, battelli, occupare strade, rompere anche vagamente le palle, perché comunque stanno in giro, non sanno bene dove andare. Sì. E però cosa succede? Succede che da un certo punto di vista anche questi luoghi che, per l'amor di Dio, magari qualche volta i decibel sono un pochettino esagerati, però se ad ogni suono di radiolina dobbiamo chiamare l'ARPA, quelli che devono lavorare con un bar, con un lido, e devono vivere questi tre mesi, già piove ogni tanto che non c'è l'estate come è successo l'anno scorso. Allora, è possibile che solo decespugliatori, tagliaerbe, motoseghe, quello è lavoro, quelle si possono usare anche il sabato mattina alle 6, però appena c'è un po' di musica, però tutta la notte. Non stiamo parlando delle 3 di notte. Sì. Quando c'è l'esagerazione, esagerazione, anche nel caso del 5 Terre, la gente che arriva lì, se è troppa, a qualcuno è ovvio che dà fastidio. Su una vettura possono stare in 5, non possono salire in 18. Quando io ero a Viterbo a fare il militare, città stupenda, però i militari solo dell'aeronautica erano 4.000 ogni mese, senza contare poi elicotteristi e tutti gli altri. Più dei cittadini di praticamente Viterbo, i cittadini non ci sopportavano più, ma non per partito preso, chiunque avesse i capelli corti o vagamente corti non veniva neanche preso in considerazione se chiedeva dov'è una lavanderia, perché non ce la facevano più. Il troppo storpia sempre, e comunque sia, se non c'è equilibrio abbiamo poi questi problemi. Però mi affascina quella descrizione che hai fatto di queste piccole località lariane o lombarde dove d'inverno c'è un bar aperto eccetera. Possiamo dargli un messaggio di fiducia, che è questo, cioè a volte questo stimola la fantasia, perché non avere un'offerta di nessun tipo, no? Ti devi arrangiare, ti devi inventare delle cose. Ci sono dei bar che io ho chiamato veramente le ultime spiagge, che meriterebbero un premio, una medaglia Nobel, d'oro, un premio Nobel, sì, perché sono dei presidi di vita. Io arrivo alle 3 dalla notte e ovviamente sono un chilometro da casa, finalmente posso mangiare una pizza senza che poi mi venga la biocco, bere anche un bicchiere di vino che magari ci vado anche a piedi, capito? Sono quelli che tengono aperti ancora fino alle 3 di notte e hanno lì un po' di gente che arriva anche a quell'ora, perché sono quelli che resistono anche durante la stagione invernale. Anche nelle tue zone sono molti cinesi o resistono ancora gli italiani nei bar? Perché per esempio a Milano ci sono italiani, quasi. Sono dei locali che resistono veramente, e ci sono altri bar che invece sembrano scomparire con l'arrivo dei primi freddi, no? Ma perché probabilmente qualcosa non funziona, oppure qualcuno dice probabilmente io preferisco lavorare soltanto tot mesi in estate e poi me ne vado a fare le vacanze dove voglio, perché voglio una vita di qualità, posso permettermelo, lo faccio. C'è qualcuno invece si immola e cerca di tenere duro con dei bar che poi grazie a Dio funzionano, proprio perché diventano il punto d'appoggio, e così per anche il bar del paese. Nella piazza del paese sono un'istituzione per l'Italia. Andiamo sul traffico, poi torniamo ancora con qualche ascoltatore all'800 24 00 24. Ci manca ancora un racconto sui nonni, che sia proprio di quelli tac da vincersi il catalogo del MUDEC, Museo delle Culture, che oggi mettiamo in palio, edito da 24 ore cultura. Gran Moravia e burro delle Alpi di Brazzale, fidati di chi conosci da 200 anni. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Oggi in studio con noi Davide Van de Sfros, che tra poco sentiremo ancora eseguire alla chitarra qualche nota e così improvvisare insieme qualche cosa. Francesca da Milano, intanto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. Il mio nonno straordinario è tra l'altro originario di una valle che si affaccia sul lago di Como, che è la Valle Intelvi. È straordinario perché è nato comunque alla fine dell'Ottocento, è un uomo che ha davvero viaggiato molto, ovviamente per lavoro, per necessità, dall'Uruguay, dove ha imparato perfettamente lo spagnolo, a Berlino, parlava quando l'emigrazione erano quasi stellette da mettersi alle spalle e non una cosa di cui vergognarsi. Sì, e molta anche necessità, ma questa sua propria propensione per le lingue addirittura l'aveva portato ad imparare l'esperanto, che all'epoca era veramente. E cosa faceva nella vita suo nonno, Francesca? In Valle Intelvi ha fatto dall'agricoltore per la famiglia al negozio di ferramenta, poi in giro per il mondo credo che abbia fatto quello che è riuscito a fare. Il nonno viaggiatore, insomma, senza navigatore satellitario, senza smartphone, senza... Assolutamente, senza aerei, perché senza aerei. In Uruguay c'è andato in nave. Senza numeri di telefono di nessuno, perché adesso in quasi qualunque posto in cui vai c'è sempre qualcuno che ti dà un indirizzo, un consiglio, un amico. È bello. bello che sia così, però prima si viaggiava in un altro modo e quindi forse sì, c'era ancora più dell'eroismo nel farlo. Grazie Francesca per averci chiamato e per averci raccontato del nonno viaggiatore. Cristina da Milano, buonasera, anzi buongiorno. Buongiorno. Io volevo fare gli auguri alla signora Antonia Bonazzi, sì, che ha 97 anni, vive a Mussons vicino a Udine. Ma è una sua amica? Una donna fantastica, una parente? Perché è la classica Resdora di Parma, nel senso che lei ancora oggi cucina benissimo. Sì. Scusi un attimo, ci ripete il nome di questa signora? Si chiama Antonia Bonazzi. Bonazzi, ed è una sua amica? Una sua parente? No, praticamente è la nonna del compagno di mia figlia, quindi la nonna di Michele Ferrari. Ok. E com'è che l'ha definita in parlata? Guardi, è la classica, allora 97 anni appena compiuti, ed è la classica Resdora emiliana, perché ancora ad oggi cucina benissimo. E non solo, legge da John Grisham alla Gruber, ed è fantastico. Veramente può mantenere il colloquio con persone di 40 anni e sta sempre sul pezzo, sempre aggiornata su tutto. È quasi come la mia nonna, che saluto, la nonna Rita, che adesso ci sente un po' meno, ma anche lei legge, si tiene aggiornata, ed è una persona con cui dialogare tranquillamente, ed è piacevole. Guardi. Cristina, sì, grazie, veramente. Grazie per averci chiamato, adesso poi magari se riusciamo diremo in fondo alla puntata chi vince. C'è il catalogo del Mudec, oppure ve lo diciamo domani, ma qualcuno lo vincerà sicuramente. Adesso, per introdurre l'ultimo ospite, due note di Davide Van de Sfros. Radioattive, la fogna che la scarga Jones e i Reef, e il predese all'Ecative, sunti inquina dai pefina ai gengiv, Remulif, radioattive, scimpanzie, siero positive, manca i cuniliga nel preservative, scimpanzé, radioattive, Remulif, radioattive, e i tomates in abrasive, i rati in gross come il locomotive. E il predese alle cattive, se lavi la faccia con te il palmo leaf, perché i remo leaf in radioattive. Speriamo che non finisca così anche a Green City a Milano. Buongiorno all'assessore Chiara Bisconti, assessore al verde del comune di Milano. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato. No, è proprio per evitare che finisca così con i rami d'ulivo radioattivi e tutto quello che Davide cantava in questa canzone esilarante, cioè, che c'è Green City, 300 eventi in città per così festeggiare, celebrare lo sforzo dei cittadini, i volontariati del verde, i giardinieri, ma lo sforzo anche del comune per rendere questa città più verde. Sì, e soprattutto per iniziare a renderci conto di una identità nuova che Milano un po' sta già scoprendo, con tutta questa energia che Expo ci ha portato, tutti questi eventi che fanno vivere piazze, strade. Davvero Milano sta cambiando pelle e i cittadini lo dicono, lo scrivono sui social, iniziano a dire ma Milano è bella. E l'altra cosa che sta scoprendo è che Milano è verde molto più di quanto noi stessi milanesi ci rendiamo conto. E lo è sia negli appezzamenti grandi di verde, abbiamo tantissimi parchi molto belli, sì, che stiamo scoprendo, sia in questa incredibile energia che in questi 2-3 giorni è stata messa un po' a sistema, messa in un contenitore di divertimento, di comunicazione, sì, ma in realtà è energia che esiste in città. E quindi chi va adesso a vedere questo programma delle 3 giorni vede che ci sono i giardini condivisi, ci sono orti dappertutto, ci sono orti sui tetti, inaugurazione, museo botanico. Adesso sto per andare all'inaugurazione del Museo Botanico, cosa di cui siamo molto orgogliosi, perché una città deve avere il suo museo, tra l'altro è certo, molto carino, invito tutti a visitarlo, ma c'è questa incredibile energia cittadina fatta dalle persone, associati o anche da soli, e stiamo un po' tutti scoprendo il gusto di riscoprirla, e lo dico in questo con la serietà di un'amministrazione che del verde davvero ha capito, sì, che è una componente della qualità di vita. Sì, cosa risponde invece a chi critica a volte un po' questo, diciamo, di progetti, lei ne ha citati, la Arsena, sì, ci sono gli ex scali ferroviari che state recuperando, la riapertura, certo, di Navigli è un progetto di cui si parla, Expo con la previsione del 50% di verde sul futuro di Expo, e va bene, però c'è chi dice ma queste cose sono un po' cose di moda, un po' da fighetti solo per chi frequenta il centro città, perché un'amministrazione dovrebbe occuparsi di questo? Cosa risponde? Beh, già quello che ha detto lei, non parliamo del centro città, poi rispondo un'altra cosa, se c'è un serissimo impegno a valorizzare il verde in tutte le sue forme, quindi davvero dallo sviluppo dei grandi parchi al piccolo orto, ma e c'è questo impegno dell'amministrazione, bisogna fidarsi, perché siamo un'amministrazione che ha davvero incrementato di 3 milioni di metri quadrati il verde, ha aperto decine di nuovi parchi. Nonostante gli alberi tagliati per fare la metropolitana. No, ma proprio, quindi... lo dico proprio questo, se c'è, bisogna fidarsi, se c'è questa grossa volontà insieme ai cittadini di tirar fuori l'anima verde di Milano, alcuni interventi sono assolutamente fisiologici e necessari. Io quello che appunto voglio dalla mia amministrazione è che il verde sia tutelato e sviluppato. Alcuni interventi che necessitano anche il taglio di alcune piante sono assolutamente necessari. Ricordo che le piante muoiono, hanno anche dei fine vita, quindi l'importante è che ci sia una visione forte di sviluppo di questo verde, e energie sul verde a Milano ce n'è una quantità incredibile. E comunque, insomma, questa è l'iniziativa. Dopo Book City, Piano City, adesso c'è Green City. Ieri, oggi e domani tante cose da fare, da vedere, da scoprire a Milano. Potete trovarle naturalmente online. Davide, tu ci credi a questa riscoperta della natura del verde, oppure ti pare una cosa un po' artificiosa? No, no, di artificioso non c'è niente, anche perché, ragazzi, non veniamo a dire che la Lombardia non è verde. La Brianza era verdissima, collinare, e ha ancora un'estensione di verde incredibile. Il fatto che poi la si confonda con la nebbia, l'iperproduttività, le fabbriche, lo smog, è un altro paio di maniche. Ci sono, ma è un altro paio di maniche, ma non c'è solo quello. È sufficiente salire sulle bianche torri di Vimercate per vedere tutto il verde che intorno c'è. Certo, si vedono anche le fabbriche, alcune costruite bene, alcune costruite male, ma si vedono la Grigna, si vedono le Alpi, si vedono quasi gli Appennini, perfino dal grattacielo centrale vicino alla stazione, si vedono quasi gli Appennini, quindi si vede questa grande massa di cemento, concrete jungle, che ok, però c'è anche tanto verde. Pensiamo a Poasco o quelle zone in Milano che erano proprio verde nella città, e quello sono ancora. Io ringrazio l'assessore Bisconti, Green City, grazie per essere stata con noi, siamo in chiusura, e ringrazio naturalmente Davide Van der Frost, grazie a voi tutti, grazie compagnia, a voi tutti. Spero anche in futuro fissa, o comunque insomma ci sentiremo un po' di volte, dai. Appuntamento il 10 ottobre a Bassano del Grappa per il raduno dei fan di Davide Van der Frost, e al 17 dentro Expo. Naturalmente noi ci salutiamo qua, grazie a Claudia Schiattone, Peter Bescapè, Andrea Piana, ha scritto insieme a me il programma, Carlo Gabardini a Taranto per cose sue, ci risentiremo al prossimo weekend. Noi però ci ritroviamo domattina alle 8:30 con Si può fare. Ciao a tutti da Alessio Maurizi. Ciao.